seas of oppression. Oh, oh, don't make my life a prison. We come from Trenchtown. Trenchtown. Most of them come from Trenchtown. We free the people with music. Sweet music. Can we free the people with music? Sweet music. Can we free the people with music? With music. With music. Oh, music. Mama, siamo out of shell. Boom! Alzo il volume della radio, arriverò all'ultimo stadio. Non mi chiamate, non risponderò, dato che ora sto sintonizzato. Ma se ti senti incazzato, apri la bocca e dagli fiato. Contro il bavaglio di stato so che combatterò come un soldato. Sentimi, non manda la pubblicità, non manda gli spot. Senti l'energia come un elettroshock. Suona alternativa 24 non stop. Se tu cerchi rock oppure il reggae e l'hip hop, te lo dico con le rime e con la voce che c'ho. Trasmette in diretta dalla vetta al top. E libera, libera, libera antifascista. Libera, libera, libera antirazzista. Radio transizione di fase, quello che senti. Pronta a dare voce forte a tutti i resistenti. Fuori dallo schema del sistema, sta con chi si schiera, ne vale la pena. Te lo dico ora, mi senti? Mi senti o no? Mi senti o no? Alzo il volume della radio, arriverò all'ultimo stadio. Non mi chiamate, non risponderò, dato che ora sto sintonizzato. Ma se ti senti incazzato, apri la bocca e dagli fiato. Contro il bavaglio di stato so che combatterò come un soldato. Questa è Radio Transizione di Fase, tieni a mente. E allora buonasera a tutti e a tutte, siete collegati su Transizione di Fase. Ancora una volta salute e felicità torna con questa 16ª puntata, la seconda dopo il rientro dalle vacanze estive. Naturalmente con qualche minuto di anticipo, giusto per un'apologia di reato mia, non mi si dice, con delle scuse perché non riesco ad aggiornare il blog, vi giuro, io i podcast li sto facendo, però non ci riesco. I nostri cari amici e compagni e compagne di noblogs.org hanno deciso di passare su WordPress e io, che sono un incapace al computer, non riesco a aggiornare il blog, vi giuro, scusatemi, oggi ci provo, stanotte mi sbatto e vi carico sia la puntata numero 15 di 2 settimane fa che la puntata, scusate, di questa settimana. E quindi dopo queste scuse sentite, vi prego di credermi al riguardo. Facciamo partire la sigla. Come avrete potuto ascoltare, la sigla di Salute e Felicità per questa nuova stagione sarà diversa da quella dell'anno scorso. Loro naturalmente sono gli Animal Collective e questo brano si chiama Leaf House. Buon ascolto a tutti e a tutte su Transizione di Fase e su Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer in onda il mercoledì dalle 21 alle 23. Buon ascolto a tutti e a tutte. Allora, ci siamo, davvero ci siamo. Intanto era partito chiaramente un pezzettino della canzone che però ha bisogno di una breve introduzione. Oggi, vabbè, insomma, pare che questo paese più o meno stia provando a svegliarsi in qualche modo, un po' più in qua, un po' più in là, però un po' di cose sono successe rispetto a 2 settimane fa, l'ultima volta in cui ci siamo sentiti e in cui davvero ancora c'era la moria post-estate, l'unica, anche un po' adesso è così, però insomma, qualcosina si muove. L'unica notizia importante era lo scontro Berlusconi-Fini, di cui ci interessa davvero poco, perché tanto la sappiamo qual è la tattica, no? Facciamo parlare di noi, gli altri, tanto questo governo fantasma, come si chiamavano? Il governo fantasma, il ministri fantasma, l'opposizione che più fantasma di così davvero non si può, cioè riescono a perdere punti anche quando la maggioranza perde punti. E la Democrazia Cristiana naturalmente ringrazia come al solito. Insomma, invece, questo paese si sta risvegliando nel bene e nel male. Questo brano si chiama Equal Rights, è di Peter Tosh, e vi spiegherò subito dopo la fine del brano, appunto, perché ho deciso di metterlo all'inizio della trasmissione. Buon ascolto a tutti e a tutte con Peter Tosh, Equal Rights. of mine. Where you gonna run? Già, già, già, equal rights, diritti uguali per tutti, e invece ancora in questo paese succedono robe tipo queste. A Pignataro, in provincia di Frosinone, ancora una volta nel Lazio, ennesimo episodio di omofobia. Una coppia di fatto, composta da due uomini omosessuali inglesi, è stata aggredita nel corso della festa della birra, che qualche sera fa si è svolta nel comune di Pignataro. I due, trentenni e in vacanza nel paesino nel Cassinate, cioè Cassino, erano intenti a scambiarsi effusioni seduti su una panca quando sono stati avvicinati da un gruppo di uomini, quasi certamente romeni, che li ha selvaggiamente picchiati. Gli aggressori hanno contestato a voce alta il fatto che i due italo-inglesi, uno dei due originario della zona, stessero dando uno spettacolo poco edificante. Le vittime hanno riportato ferite al setto nasale e alla testa, e uno dei due è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sul gravissimo episodio di omofobia stanno indagando ora i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, figurati tu. I militari stanno ascoltando anche gli altri presenti alla festa per cercare di risalire agli aggressori. La coppia, i due inglesi, sono regolarmente sposati, è ripartita alla volta dell'Inghilterra, ora dico io. Chiaramente questa notizia va in prima pagina su tutte le testate giornalistiche, perché una volta tanto chi è che ha colpito una coppia di gay, di lesbi, che sono rumeni? Ma chiaramente non è il primo episodio nel Lazio, e se queste persone da qualunque parte del mondo vengano, si permettono di fare un gesto del genere, è evidente che in tutto il paese c'è un clima che questa cosa la permette, c'è una situazione legislativa che lo permette, c'è un governo omofobo con un partito di estrema destra al governo come la Lega Nord, che assolutamente non ha intenzione di cedere su quelli che sono tutte le loro milioni di cazzate, tra cui anche quella della Chiesa e del Vaticano in generale. E allora, come dire, siccome queste cose non c'è, sembra un bollettino di guerra oramai l'Italia per le persone LGBT, QA, E, Y, Z, X e chi più ne ha più ne metta, chiaramente c'è bisogno di una scossa forte. Per quello che posso fare io da qui, seduto mercoledì sera alla mia scrivania a fare questa trasmissione, ho pensato che il modo migliore per comunicare, insomma, il mio stato d'animo fosse questa canzone qui. Un buon ascolto a tutti e a tutte, siete su transizionedifase.org, salute e felicità, una rubrica tendenzialmente queer. Spacco tutto, distruggere stanca, non c'è che dire. E adesso vorrei riposare per ore, ma non si può, devo ricostruire un mondo diverso, un mondo migliore. Ma solo adesso che è tutto distrutto mi rendo conto e comincio a capire che non ha senso distruggere tutto se ancora non sai come ricostruire. Sogno un bagno a La gente si lamenta, però qui c'è tutto, vado a sud. E allora, chiaramente in questo paese continua a succedere di tutto. Come abbiamo parlato già, diciamo, la puntata scorsa di quella che è la situazione dei precari, che sono stati gli unici ad animare un poco quest'estate davvero silente politicamente. E invece adesso la protesta si sta spostando sempre più negli atenei universitari. Al via il blocco della didattica e corsi sospesi, e prof, tra virgolette, diciamo, potremmo definirli indisponibili. Sia la Sapienza che Tor Vergata si dichiarano pronte al rinvio dell'anno accademico. Le lezioni verranno rimandate a metà ottobre. Diciamo, sono stati effettuati molti pensionamenti, i ricercatori si sono messi a braccia concerte. Una protesta trasversale, anche se Azione Universitaria, che è il PDL, le merdacce, attacca garantiremo il diritto allo studio, che non si capisce che vuol dire, visto che comunque non c'è l'università, e questi qua di Azione Universitaria, quattro bifolchi, garantiranno da soli il diritto allo studio. Vabbè, dal blocco della didattica al rinvio dell'anno accademico. Sarebbero dovute cominciare tra meno di una settimana le lezioni alla Sapienza. E invece tutto è rimandato a metà ottobre, tra i tagli economici, pensionamenti a valanga e l'ondata di protesta dei ricercatori. Ieri il Dipartimento di Fisica ha deciso di rinviare l'inizio delle lezioni di 2 settimane. A causa dell'impossibilità di garantire un'offerta didattica adeguata in condizioni di definanziamento. Manca solo la ratifica del Consiglio d'area, ma professori e studenti, si legge nel comunicato di Atenei in rivolta, hanno espresso il pieno sostegno alla protesta contro il DDL e contro i tagli al sistema universitario. E già il 28 settembre ci sarà un'assemblea per discutere sulle mobilitazioni. Schierata anche Ingegneria, che ha deliberato il posticipo dei corsi contro tagli ingiustificati delle risorse e il mancato riconoscimento del ruolo dei ricercatori. Suscitando così la reazione di quelli di prima, Azione Universitaria, movimento del PDL, movimento, ma come cazzo scrivono su Repubblica, che ha indetto un presidio chiedendone di garantire il diritto allo studio un'altra volta. Non ci sta l'università, questi vogliono garantire il diritto allo studio, vabbè. La cosa divertente è la dichiarazione di oggi di Frati, che è il rettore della Sapienza, che dice, Frati due punti aperte virgolette su Repubblica, attenzione, attenzione, se non arrivano i soldi l'anno accademico non partirà. Mi rifiuto di approvare il bilancio preventivo 2011 in rosso e di vendere gli immobili per fare cassa, ha detto il rettore della Sapienza, pronto a dimettersi, magari. L'appello alla conferenza dei rettori, due punti anche qui aperte virgolette. All'università manca 1 miliardo. La politica è restia a tagliare se stesse gli sprechi. Bisogna farglielo capire. Ora dico io, Frati, noi ti conosciamo, è inutile che fai queste farse qui. Esce su Repubblica con queste notizie agghiaccianti, dove in realtà oggi dovete sapere che le facoltà della Sapienza sono state ridotte da 23 a 11, accorpando roba. Chiaramente questo mi interessa in prima persona, tipo medicina e psicologia, un passo indietro nella storia delle scienze davvero di oltre forse 100 anni, non lo so, insomma, è davvero una questione, cioè qualcosa che non si vedeva da un po'. E allora come non mettere una canzone che dopo Radici nel cemento con Spacco tutto e Reina Fit Brusco con Vada Sud, come non mettere un altro brano che già 2 anni fa si sentiva un po', ma come dire, dopo il movimento dell'onda è rimasto in voga e mai, cioè anche adesso insomma continua a essere assolutamente attuale. Loro sono gli Assalti Frontali e questo brano si chiama Rap di Enea. Buon ascolto a tutti e a tutte. Questo è rap di Enea per le scuole elementari. Questo è rap di Enea. Oh, Enea super rap. Questo è rap di Enea, è un ripasso per somari. C'ho un'idea, c'ho un'idea, disse Enea, c'ho un'idea. E prese la parola in assemblea, c'ho un'idea, c'ho un'idea, disse Enea. Stanotte ci imbarchiamo con l'alta marea. Canto le

dice fa la predica, con chi c'è la comunica, con l'arma giornalistica, todo sustentabile, todo condannabile, la delle giornalista manana e poi, inscrivibile. Ecco il politico, con fare diplomatico, risolvo ogni mistero con una farsa da ecumenico. Una cosa è certa, che vi piaccia o vi indigna, la battuta è ora per fermo la caccia se siete né tu. Che ti vuole presenza sulla richiama elettorale, vuole far tutto lo vuole tu. Fare la morale, sanno dei riciclo ma me tengono all'oscuro. Sembrano ingannevoli, me sappia per culo. Pensa per te che io ci penso da me, manta la vai mai. Pensa per te che io ci penso da me, manta la vai mai. Pensa per te che io ci penso da me, papà papà, pensa per te che io ci penso da me. E allora, una notizia davvero esilarante adesso. Attenzione, signore e signori, perché dopo quello che ci avevamo appena detti sullo stato dell'arte dell'università in Italia, è arrivata la Gelmini con un'idea sensazionale, signore e signori. Libro leggo. Con un accordo Gelmini-La Russa, al via un concorso che prevede la divisione degli studenti, parliamo di studenti delle scuole superiori, in pattuglie. Lezioni di tiro con la pistola, d'aria compressa e percorsi ginnico-militari. Si chiama Allenati per la vita. E il corso teorico e pratico, valido come credito formativo scolastico, rivolto agli studenti delle scuole superiori, frutto di un protocollo tra Ministero dell'Istruzione e della Difesa. E che cosa serve a un ragazzo per allenarsi per la vita? Esperienze di condivisione sociale, culturale e sportive, informa la circolare del Comando Militare Lombardo rivolta ai professori della regione. Dopo le lezioni teoriche, che possono essere inserite nell'attività scolastica di diritto e costituzione, seguiranno corsi di primo soccorso, arrampicata, nuoto e salvataggio e orienteering, cioè vale a dire sopravvivenza e senso di orientamento. Ma l'autore della circolare scrive orienteering con la I, coniando un neologismo. Non solo, ma agli studenti si insegnerà a tirare con l'arco e a sparare con la pistola ad aria compressa. E in più percorsi ginnico-militari. Il perché bisogna insegnare la vita e la Costituzione a uno studente liceale facendolo sparare con una pistola ad aria compressa viene spiegato, scusatemi, nella stessa circolare. Le attività in argomento permettono di avvicinare in modo innovativo e coinvolgente il mondo della scuola alle forze armate, alla protezione civile, alla Croce Rossa e ai gruppi volontari del soccorso. Come dire, non c'è che da restare esterrefatti a una notizia del genere, bastano 20 righe per capire almeno 10 cazzate. La prima, che per fare socialità ci sia bisogno di fare arrampicata, obbligatoriamente, mentre invece magari si potrebbero svolgere altre attività ludiche. Un'altra che per allenarsi per la vita, appunto, bisogna imparare a tirare con l'arco, mentre magari sarebbe il caso di fare un corso su, che ne so, la sessualità. E poi le attività in argomento permettono di avvicinare in modo innovativo e coinvolgente il mondo della scuola alle forze armate, alla protezione civile, alla Croce Rossa e ai gruppi volontari del soccorso, che praticamente sono quelli che stanno dentro i centri di identificazione e espulsione a Ponte Galeria in tutta Italia. Sono quelli che hanno fatto le zozzerie in Abruzzo dopo il terremoto. Sono quelli che hanno fatto le zozzerie dopo che è crollata mezza Messina e ancora ci vogliono fare il ponte. E quindi, signori e signore, in questo paese, nelle scuole della Lombardia, ma secondo me è così tanto innovativa e coinvolgente questa attività che la potranno estendere un po' a tutte le regioni d'Italia, secondo me glielo consiglierei a questi simpatichissimi Gelmini alla Russa. La Russa ce lo ricordiamo per le sue mutande in vetro resina. Insomma, vi dicevo, secondo me è un'attività che potrebbe essere davvero estesa molto facilmente, vista anche l'elevata richiesta di attività tipo sparare con la pistola ad aria compressa. Quindi, cioè, ci teniamo a sottolineare ad aria compressa, poi chiaramente ti compri la pistola e spari bene, cioè non è che spari per forza con la pistola ad aria compressa, aspetti che fai 18 anni, ti compri una bella pistola e possibilmente fai una strage come ce ne sono più o meno ogni giorno negli Stati Uniti. Molto bene, signore e signori, abbiamo concluso questo spazio di innovazione e, come dire, socialità, ringraziando la nostra ministra dell'istruzione insieme al suo fidato prodo compagno, la Russa, mutanda di vetro resina. E allora, siccome nel frattempo l'università e la scuola crollano, mentre questi qua pensano alla cazzata, noi ce ne andiamo con Alborosi a Gerusalemme, che magari lì pure la situazione non è facile, però magari ci facciamo un bel viaggetto e non ci pensiamo più per qualche giorno. Alborosi, Gerusalemme. Buon ascolto a tutti e a tutte su Salute e Felicità. Psycho, a man is just a man. A man is just a man. Oh well. perspiration. That's why me can't chill. I'm a judge, a soldier with extra dopamine skills. No, scusatevi, perché qua su MSN mi hanno scritto un'idea geniale. Consiglierò anche questa qui alla nostra cara simpatica amica Gelmini. Bisogna istituire alla settimana, ogni settimana, almeno una volta a settimana, l'ora di discoteca. Tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz tuz. Psycho, a man is just a man. A man is just a man. Oh well. I see desperation, that's why me can't chill. I'm a judge, a soldier with extra dopamine skills. Me burn me marijuana right on top of the hill. I'm not a Buffalo soldier, maybe a Buffalo Bill. Me love reggae music keep me awake. I'm a bongo dreadlock so I can never be fake. I am who I am, I'm just a song on a tape. And with the sexy girls, them I'm like a child with a cake. Well, I, Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. Ever fearless, ever ready, ever sleepless. Sodom and Gomorrah bung dung in a the furnace. No watch me face, no watch me race. Don't check me place, cause me well settle in a the Gideon and me not go move back. Well, Babylon rulers and the mockers shall not prosper. So judge your people, just keep working, there's no siesta. Don't call me Christian, call me Rasta. Little pagan, I you them call Bunker Bestia. You so sweet, yeah. I, Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. Oh well, give thanks and praise, yeah, to the Most High Jah, yeah. Well, give thanks and praise, yeah. Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. Moving closer, so don't lose yourself. Don't waste my time, and please don't waste yourself. Money root of all evil, Pooper specially said. I don't like my ego, so I don't like myself. I don't see no race, just one shade of black. I don't talk no music, I don't trick no track. I don't hate nobody, or maybe I hate myself. So let me waste my time, and let me waste myself. Well then, I, Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. I, Jerusalem, here I am. E allora, seguendo questa logica malata, sempre lo stesso soggettone di prima mi suggeriva: ma perché allora non istituiamo un'ora di orientamento impasticcati? Visto che quello che fanno la maggior parte dei giovani e delle giovani italiane, distrutti da un sistema che li opprime, e quindi si sfondano di sostanze ha ragion veduta da un certo punto di vista, facciamo una bell'ora di orientamento impasticcati e poi istituiamo pure, potrebbe essere una buona idea, istituire un bel corso di scuola guida da ubriachi, proprio perché effettivamente uno guida più spesso ubriaco che quando è sobrio. Quando è sobrio è facile. Allora, seguendo questa logica geniale, che nella vita c'è bisogno di saper sparare con le pistole ad aria, perché non facciamo questa cosa... No, perché innovativa? Direi rivoluzionaria. Ah, signore e signori, jingle e poi cambiamo completamente atmosfera e argomento. Buon ascolto a tutti e a tutte su transizionedifase.org. Di fase, guerriglia in strada, nell'etere in rete. Sin, ha, straight from Calabria, you know? Camina! Radio transizione di fase, radio transizione di fase, radio transizione di fase. Sentimi, hey. Questa è la radio che ascolti nella tua città, in ogni luogo lei ti accompagnerà. Se tu lo dirai alla gente, di più, di più. È la tua radio e non vive di pubblicità. Ad ogni orario trasmette la realtà. Transizione di fase dal sud, dal sud. Senti, non è la radio commerciale con le hit parade o con le solite voci di quei DJ. Radio ribelle spinge contro informazione, la censura non fa i tagli come Miracle Play. Dal sud al nord ovunque resta connesso, la guerriglia passa dalla rete adesso. È così che qui noi facciamo resistenza, radio transizione di fase contro tendenza. Yo, Calafro Sound e radio transizione di fase, guerriglia in strada, nell'etere in rete. Sin, ha, straight from Calabria, you know? Camina! Le streghe sono tornate, almeno nel Lazio, visto che sono state raccolte, non si sa bene per quale grazia divina, 5.000 firme a difesa dei consultori pubblici nel Lazio. Fra loro c'è chi ha i capelli bianchi, ci sono mamme in attesa, ragazze, si sono unite per difendere i consultori. Vogliono dire no alla proposta di legge Tarsia presentata dalla commissione primaria, appunto, del PDL. Si sono date appuntamento davanti ai consultori della capitale per affiggere un cartello con una scritta: la proposta Tarsia non parla di noi, no all'abolizione dei consultori. Subito dopo hanno deciso di fotografare la loro mobilitazione, si sono messi in posa e hanno immortalato la loro azione collettiva. A dare il via alla mobilitazione, l'Assemblea Permanente delle Donne, che raccoglie 50 realtà fra associazioni rappresentanti del mondo della politica, sindacati e consultori. La protesta si è svolta a macchia di leopardo, di fronte a tutti i centri di assistenza sanitaria della città. 5.000 le adesioni al movimento raccolte finora, anche attraverso Facebook, con una petizione contro la riforma. Solo sul sito del movimento sono state raccolte 1.500 firme. La proposta di legge Tarsia punta a riformare la disciplina dei consultori laziali, riconoscendo le strutture private attive sul territorio, costituite da associazioni familiari o che fanno capo alle diocesi, e finanziandole con risorse pubbliche se sono accreditate. È previsto inoltre un assegno di sostegno mensile rinnovabile fino al raggiungimento del quinto anno di età del bambino, nel caso in cui la donna scelga di non abortire e abbia un reddito non superiore alla soglia di povertà. La proposta vuole privatizzare i consultori e punta a erogare fondi pubblici ad associazioni confessionali, si legge nel comunicato. Inoltre cancella l'indipendenza e la competenza delle operatrici e degli operatori e avrebbe ricadute pesantissime sulla possibilità per migliaia di famiglie di accedere a minimi livelli di cura. L'Assemblea Permanente delle Donne punta il dito contro la parte introduttiva della proposta di legge Tarsia. Sul testo si legge che i consultori devono diventare strutture non più deputate a fornire servizi sanitari, bensì, sentite e tremate, a sostenere la famiglia e i valori etici di cui è portatrice. Si parla poi di importanti principi a tutela del figlio concepito, che va già considerato come membro della famiglia, ai quali l'attività dei consultori è chiamata a conformarsi. E se qualcuno non l'avesse capito, diciamo che questo simpaticone di Berlusconi e questa simpaticona della Polverini hanno assolutamente bisogno di voti. E chiaramente cosa si fa in Italia quando chiunque sia ha bisogno di voti? Chiaramente prende e va a ricercare all'interno dell'area clericale e cattolica, sempre disposta per un piccolo favorino a concedere il proprio voto, che intanto quella che cazzo viene fotte, c'hanno il loro stato, e un governo antiabortista gli farebbe molto molto molto comodo, e già ce l'hanno, insomma. È questa dichiarazione di chiusura dei consultori, che sono una struttura fondamentale nella sanità italiana, addirittura per alcuni altri paesi all'avanguardia, insomma, non gli farebbe per niente schifo al Vaticano. E quindi un bel regalino preelettorale, così vediamo di vincere di nuovo queste elezioni e di prendere questi 316 voti al Parlamento, alla Camera e al Senato. Andiamo avanti, va, ascoltiamoci una canzone di Caparezza che ricorda un po' ai maschietti che cosa dovrebbero fare, che cosa dovrebbero imparare a fare nella loro vita, vista appunto qual è la situazione delle donne in Italia e nel mondo. Buon ascolto a tutti e a tutte. Non sei un uomo se come un frate chiedi perdono. Non sei un uomo se fare mazzate non sei buono. Non sei un uomo se tua moglie di te se ne fotte. Non sei un uomo se non la gonfi di botte. Non sei un uomo se non guidi le macchine grosse. Non sei un uomo se non tiri due gance alle giostre. Non sei un uomo se hai paura di tornare in carcere. Non sei un uomo maldicenti. Non si va avanti con la forza, ma con la forza degli argomenti. Non ascoltare questi mentecatti. Un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Non sei un uomo se non hai lo stereo più potente. E poi si vede dalla foto che hai sulla patente. Non sei un uomo se perdi tempo a studiare i libri. Se sei un uomo, meglio che inizi con i cibi. Non sei un uomo se ti beccano la piantagione. Non sei un uomo se dalla prigione fai il mio nome. Non sei un uomo se mi fotti che se me ne accorgo. Non sei un uomo vivo, tu sei un uomo morto. Non sei un uomo. Non si va avanti con la forza, ma con la forza degli argomenti. Non ascoltare questi mentecatti. Un vero uomo si dovrebbe alzare per lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare. Dovrebbe lavare i piatti. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Dovrebbe lavare i piatti. Accidenti. Il risultato delle elezioni è un clamoroso successo della democrazia. Il 100% degli elettori ha votato per il fronte. Eh sì, va bene, va bene, va bene, va bene. Magari nel collettivo di transizione di fase ci sono anche uomini che si lavano i piatti, ma non mi pare che questa sia la situazione generale di un paese basato sul patriarcato, sul sistema basato sul patriarcato, ma come dicevamo poco fa. E allora, voglio dire, insomma, c'è è successo questo ennesimo scandalo, signore e signori, che poi scandalo, cioè oramai ne esce uno al mese, perché diciamo questo concordato mussoliniano vacilla ringraziando al cielo per l'appunto, ti è Ior. Maxi sequestro da 23 milioni, fa ridere tantissimo questa notizia e prendere le notizie dai giornali italiani fa divertire da morire. Maxi sequestro da 23 milioni, Vaticano perplesso sull'inchiesta. Fa ridere perplesso, poi capiamo perché. Il presidente della banca Gotti Tedeschi e il direttore generale Cipriani sono sotto inchiesta per omissioni legate alla violazione della normativa antiriciclaggio. Nel mirino della Procura di Roma, due trasferimenti operati da un conto sul credito artigiano. La Santa Sede conferma la fiducia al manager. Chiaramente ce l'ha messo lui, voglio dire, mi pare che Berlusconi abbia mai parlato male di tanti, oltre che di Fini che l'ha appena spanculato. L'operazione sospetta, qual è? L'inchiesta della Procura prende il via dalla segnalazione di un'operazione sospetta da parte dell'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, con sospensione della stessa operazione per 5 giorni lavorativi. Ciò ha consentito al nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza e alla Procura romana di attivarsi. Le nuove indicazioni fornite dalla Banca d'Italia in materia di antiriciclaggio, l'ultima risalente allo scorso 9 settembre, quindi proprio imbecilli 10 giorni fa, impongono agli istituti di credito che intrattengono rapporti con lo IOR le medesime regole in vigore per i rapporti con le banche extracomunitarie, con verifiche e controlli rafforzati. Insomma, state in un altro paese e finalmente qualcuno gli ha detto: siete come Francoforte, siete come New York, ve cagheremo il cazzo, evviva! Di qui la segnalazione alla Procura Capitolina. Il sequestro, si precisa, non è stato disposto perché c'è una prova di riciclaggio, ma perché, secondo gli inquirenti, è già stato commesso da parte dei vertici dello IOR il reato omissivo della norma antiriciclaggio. L'articolo 55 del decreto 231 del 2007 punisce con la reclusione da 6 mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro l'esecutore della operazione che omette di indicare la generalità del soggetto per conto del quale eventualmente segue l'operazione e lo indica false, cioè quello che era allo sportello e ha fatto ok, mi mette il bollo e andiamo avanti. E ancora lo stesso articolo prevede l'arresto da 6 mesi a 3 anni con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro dell'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false. Insomma, chi imbroglia, massimo 3 anni. Chi mette il bollo, un anno. Il Vaticano, due punti aperte virgolette, perplessità e meraviglia. Anche Alemanno è perplesso. Ma beh, guarda un po'. Vabbè. Che cos'è lo IOR? Lo IOR, Istituto per le Opere di Religione, è un istituto privato, creato nel 42 in piena guerra praticamente da Papa Pio XII, con sede nella città del Vaticano, quindi in zona extraterritoriale. Ha un direttore generale che fa capo a un consiglio di amministrazione formato da cardinali. Dopo i problemi creati dalla gestione di Monsignor Marcinkus negli anni 70 e 80, alla guida dello IOR è stato scelto un laico, proveniente dal mondo della finanza. L'attuale presidente è Ettore Gotti Tedeschi. Che cosa fa lo IOR? Secondo il suo statuto, compito dello IOR è provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili e immobili trasferiti. L'istituto pertanto accetta beni con destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma, anche se l'applicazione di questa regola in realtà è piuttosto aleatoria. Chi può aprire un conto? Lo statuto recita che l'istituto può accettare depositi di bene da parte di enti e persone della Santa Sede, SS, e dello Stato, della Città, del Vaticano. Secondo gli ultimi dati disponibili, ci sono attualmente nell'istituto 44.000 conti correnti, riservati a dipendenti vaticani, ad ecclesiastici di tutto il mondo, diocesi e ordini religiosi compresi, e ad una ristretta quantità di enti privati. Rilevanti sono gli investimenti esteri, in prevalenza titoli di Stato o portafogli a basso rischio. Dopo le disastrose esperienze degli anni 70 e 80, in cui speculazioni finanziarie gettarono l'istituto in una crisi profonda, sembra che la politica sia quella di una gestione molto prudente e tranquilla. Perché è interessante un conto allo IOR? Perché il Vaticano è una multinazionale, questa è una nota del lettore. Dice perché gli interessi mediannui sui conti correnti oscillano dal 4 al 12% e, non esistendo tasse all'interno della Città del Vaticano, si tratta di rendimenti netti. Anche se alla fine dell'anno o in momenti particolari ai correntisti può essere chiesto un obolo per aiutare la carità del Papa che magari si deve comprare le scarpe di Prada nuove. Qualche anno fa, per esempio, in un momento di particolare bisogno della Santa Sede, che non ha nessun introito, fu chiesto alle diocesi più ricche e agli ordini religiosi di dare un contributo alle spese per il funzionamento del governo centrale della Chiesa. Perché lo IOR si trova al centro di questa iniziativa giudiziaria? Lo IOR dispone di un'ampia rete di contatti con gli istituti bancari di tutto il mondo. E questo rende possibile l'esportazione di quantità notevoli di denaro in condizioni di assoluta riservatezza. Poiché la Città del Vaticano non aderisce ai patti internazionali antiriciclaggio, chissà perché, cioè che vergogna, ma non si vergognano. Cioè vabbè, poi non servono a un cazzo questi patti internazionali antiriciclaggio, noi non aderiamo. Anche se nel 2010 il Vaticano si è impegnato, entro la fine dell'anno, a far proprie le norme dell'Unione Europea in materia di lotta al riciclaggio. Insomma, diamo una ripulita veloce e il 31 dicembre, una volta abbiamo pulito tutto quanto, e ci mettiamo in regola anche noi. Sì, sì. Inoltre, il conto può essere aperto sia in euro che in valuta straniera. Hai capito? I clienti vengono identificati solo attraverso un numero codificato. Alle operazioni non si rilasciano ricevute. Non esistono libretti di assegni intestati allo IOR. E tutti i depositi e passaggi di denaro avvengono tramite bonifici bancari. Infine, avendo sede in uno Stato sovrano, ogni richiesta di derogatoria deve partire tramite il Ministero degli Esteri del Paese richiedente. Finora, quasi nessuna rogatoria è stata mai concessa dal Vaticano. Mi pare, insomma, abbastanza chiaro, insomma, qual è lo Stato Vaticano, che cosa fa lo Stato Vaticano tutti i giorni. come, qual è la sua funzione all'interno del sistema basato sul capitale e quindi sul, sulle lavatrici di soldi. Chi ci crede ancora, secondo me, a che non tanto chi ha fede in qualunque cosa gli pare e piaccia, di cui magari di questi 44.000 conti correnti qualcuno in buona fede ci sarà ancora, non mi... è sicuro e sicuramente, come ho fatto per i miei compagni e le mie compagne che hanno subito processi, c'è bisogno di aspettare la fine della sentenza, non c'è alcun dubbio, sempre se questa rogatoria sarà mai concessa dal Vaticano, ma ne ho dubbio. In ogni caso, quello che c'è da dire è che il Vaticano è una grande lavatrice di soldi e lo IOR in maniera particolare svolge questo ruolo da anni. Lo sappiamo tutti quanti che chiaramente ci sono negozi all'interno della città del Vaticano dove le cose costano di meno, proprio perché non c'è l'IVA, dove le cose costano di meno proprio perché uno Stato agevolato e fa bene a tutti quanti dare sempre una carezzina al Vaticano, e dove tanta gente del Vaticano o non del Vaticano preferisce mettere lì i soldi piuttosto che a Francoforte o a Monte Carlo per farci la sugna, come si dice al sud. E allora, belli e belle, c'è poco da fare, bisogna mettere assolutamente questa canzone qui. Dopo che abbiamo ascoltato Caparezza, un vero uomo dovrebbe lavare i piatti, è il caso di avere una bella lametta per tagliarci le vene, Donatella Rettore o Reattore. Buon ascolto a tutti e a tutte. Che mi taglio le vene. Dammi una lametta che ti taglio le vene. Ti faccio meno male del trapianto del rene. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene. Ma che mi schioppo le vene. Parlo già da sola e disegno nell'aria. Certo, ho un po' peccato, ma che godoria. Mi gioco tutto con candore e furia. E allora stop. Senti com'è fetta questa lametta, da destra verso il centro, zap, dall'alto verso il basso, zit. Che gusto, che nesto, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Senti come taglia questa canaglia, ma che bottiglia. Gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme, gimme. Allora stop. Vivere in fretta, prendere al volo, tutto conviene. Mi voglio bene, sì, mi voglio tanto bene, ma dammi una lametta che, dammi una lametta che, dammi una lametta che mi sgaro le vene. Miami Beach Boys, children with toys across the universe. Shout, song, ego, some trick. Shout, santo, song. Shout, song, ego, some trick. Shout, santo, song. Sono quando sono assente di me, da dove vengo, dove vado. Shout, song, ego, sound, trip, self, centered, song. Shout, song, ego, sound, trip, self, centered, song. Dalla pupilla viziosa delle nuvole la luna scende i gradini di grattacieli per prendermi la vita, per prendermi la vita. Central Park, I love in the dark. Ich bin klein. Sang around the campfire ground. I remember prehistoric sound. Was the time of the dinosaur age. Oh nine. Shout, song, egocentric, self-centered song. Shout, song, egocentric, self-centered song. Sono assente di me, da dove vengo, dove vado. Shout, song, egocentric, self-centered song. Shout, song, egocentric, self-centered song. Mi dice sui seni nudi, muoio d'amore. La mia ragazza, dille che io l'amo. www.transizionedifase.org. E allora ci siamo, l'ultima notizia, una delle ultime notizie prima che non vi stresso più, è chiaramente quella là riguardante un'altra situazione che si sta continuando a mobilitare, la questione del no al ponte sullo Stretto. Insomma, che, come dire, davvero, se uno riascolta un po' quello di questo, quello che ho detto, insomma, ripensando a quello che ho detto, sostanzialmente tagli indiscriminati a destra e a sinistra, a parte i soldi dati per fare le pattuglie e balline in Italia, ti viene davvero da ridere. Comunque ricapitoliamo, non ci sono i soldi per i trasporti pubblici, per le scuole, per gli insegnanti, per mettere in sicurezza tutto il territorio, e non sono alcune zone. Mancano i soldi per non so quante infinite categorie e servizi che dovrebbero essere alla base del vivere civile. ma nel frattempo si pagano ditte e società per sondare, studiare, analizzare il territorio interessato dal fantomatico progetto ponte e per la progettazione definitiva di un'opera che, secondo chi ne ha coordinato per anni il progetto, è infattibile. Si appropinquano trivelle rumorose e fastidiose a ridosso di case, in piena estate, costringendo le persone a vivere con tutto chiuso per sondare il suolo. Il tutto per un progetto per il quale, come dice il coordinatore scientifico del medesimo, sono misteriosamente scomparse le faglie esistenti sotto le pile del ponte, raffigurate invece nel progetto del 92, bocciato come era doveroso dall'allora Ministero dell'Ambiente. Pagina 160 e 161 del libro La ricerca non ha fine, un titolo, un programma. Quindi sono scomparse le faglie dalle tavole di progetto. Noi l'avevamo scritto nel 2003 nelle osservazioni allo studio di impatto ambientale, però si affannano a fare sondaggi. A che pro? Non sarebbe dovuto bastare sapere che ci sono faglie sotto le pile del ponte per chiudere la vicenda una volta per tutte? E come mai possono scomparire misteriosamente le faglie, ma ci si ostina a rendere impossibile la vita ai cittadini tutti, per dei sondaggi? Ed ancora, come si fa a varare una legge che approva il progetto preliminare all'interno del quale, faglie scomparse a parte, non sono stati fatti neanche i sondaggi preliminari? Solo in Italia, tra i presunti paesi del G8, può esserci una tale assurdità che anche dal punto di vista dell'investimento economico non sta né in cielo né in terra. Se ad esempio si scoprisse, che il substrato non possiede determinati requisiti e che porterebbe a varazione di progetto se non alla sua dichiarata infattibilità, finalmente, ma è utopico visto i soldi in ballo anche solo per il progetto definitivo, a che pro avere portato avanti finora tutta la macchina infernale, somme incluse? Che dire delle profezie del prof. Boschi che tuona contro coloro che prevedono, dati alla mano, l'imminenza di un terremoto, quello dell'Aquila, grazie al rilevamento del radom e nei giorni precedenti, non certo anni, decenti. Mentre lui dichiara all'indomani dello tsunami del sud-est asiatico che il prossimo terremoto a Messina sarà tra 1500 anni, da indignarsi, arrabbiarsi, da urlare al mondo l'assurdità di una teoria, perché è solo una teoria, i dati storici dicono ben altro, eppure continua a tuonare contro il prossimo che osa allarmarsi, salvo predire un futuro roseo, a noi vittime anche del progetto più inutile, devastante ed antieconomico che si sia mai pensato di fare, se mai fosse possibile, ma non è. Continuiamo a lottare secondo logica, leggi e buonsenso, prima o poi prevarranno, ne siamo certi. Questo è uno dei tanti testi che trovate sul sito noponte.it, retenoponte.it, insomma la situazione è abbastanza confusa al sud riguardo ai vari siti che si sono stati aperti al riguardo, però fatto sta è, cioè, insomma, è abbastanza allucinante questa situazione, è abbastanza chiaro, parlare di ponte sullo stretto nel momento in cui non ci sono i fondi per la scuola è pressoché una minchiata, permettetemi l'eufemismo. E allora, tutti e tutte, il 2 ottobre, che guardo subito sul calendario che giorno è, vi direi direttamente sabato, ma forse è un po' una cazzata, quindi meglio guardare qua sul calendario, non novembre, ma ottobre, il 2 ottobre sabato a Piazza Cairoli ci sarà appunto l'ennesima manifestazione No Ponte per dire che vogliamo la messa in sicurezza dei territori, per dire che vogliamo case, scuole, e subito un sistema di istruzione adeguato e tante altre richieste che sono state sempre più sviscerate dal movimento No Ponte, che continua a provare ad andare avanti nonostante ci sia anche chi ti sbeffeggia e ti dice: guarda, ma smettila, ci avete rotti i coglioni, il ponte non lo faranno, smettetela. Noi comunque non molliamo, il ponte non lo vogliamo, vogliamo una Calabria e una Sicilia così come madre natura ce l'ha data. E allora vi ricordo l'appuntamento appunto sabato 2 ottobre a Piazza Cairoli, il concertamento prima della manifestazione, il concertamento è intorno alle 2 chiaramente, e si stanno organizzando pullman più o meno da tutto il sud, in particolare da Palermo e da Reggio Calabria, insomma c'è un po' di maretta, quindi se volete informarvi trovate tutti quanti i contatti sul sito. E adesso basta, vi giuro, vi darò solo infine la trasmissione un altro paio di appuntamenti, ma adesso avrete il piacere di ascoltare un po' di musica senza rotture di scatole del vostro caro Frodo che rompe spesso e volentieri i coglioni. Buon ascolto a tutti e tutte, siete collegati con Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer che va in onda il mercoledì alle 21 su transizionedifase.org. Kitten is high.